assist perfetto. Vero? Ti come piace quando tu lo dico? Io lo dico poco perché ha troppe S, ma comunque. Allora, c'è chi ci vede lungo a proposito di vista. L'assist. A cavallo di quest'onda sballottato da sponda a sponda. Stavo pensando allo scientifico termine marchigiano che si usa per descrivere questa cosa qua che compare negli occhi. Come si dice? La bicicchia. Mai quest'onda mai mi affonderà. Io quando gioco con i bambini che vengo gli dico che se hanno le caccole negli occhi. Quest'onda mai mi affonderà. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. A Roma è stato presentato l'uso dei farmaci in Italia, il rapporto OSMED pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Nella lista dei farmaci più consumati, l'avrete letto anche nei giornali, l'avrete ascoltato nei nostri GR, si confermano quelli per le malattie cardiovascolari, seguiti a poca distanza dai medicinali per l'apparato gastrointestinale del metabolismo. Il terzo posto se lo guadagnano quelli del sangue, mentre il quarto e il quinto sono occupati rispettivamente da quelli per il sistema nervoso e quelli per l'apparato respiratorio. Un dato che Cuore Denari coglie con grande soddisfazione è la riduzione del consumo di antibiotici. Le campagne evidentemente, Deborah, hanno funzionato. Meglio così. O forse sono state anche un po' le puntate che abbiamo dedicato a questo tema. Ne sono certa. Ma il dato che però ha catturato il nostro interesse è l'aumento del consumo di antidepressivi. E questo ci dà lo spunto per tornare a parlare dei disturbi dell'umore. Ansia, tristezza, paura, senso di inadeguatezza. Sono tanti e diversi, lo sappiamo bene, i disturbi che possono minacciare la qualità della nostra vita, il nostro modo di affrontare la vita, ma che noi tendiamo ad etichettare con sono depresso oppure ho l'ansia. Oggi cercheremo di dare a queste parole il loro vero significato. Pensateci un po'. Una persona triste e una persona depressa possono sembrare all'apparenza molto simili, ma sono in realtà due condizioni molto diverse. Allora, non fidiamoci delle apparenze, dei luoghi comuni, delle cure fai da te. 800 24 00 24, vi aspetto per parlarne con i nostri esperti. Allora, fronte farmaci, non possiamo dimenticare che sono molto spesso impegnativi anche dal punto di vista economico. Ne abbiamo parlato spesso nel nostro programma, abbiamo ricordato tante volte qui in trasmissione le modalità per portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi, non di spese mediche nello specifico, anche se ci occuperemo anche di quelle, ma di dichiarazione dei redditi più in generale parleremo oggi nella nostra pagina di denari a partire dalle 11.45. Ci concentriamo sulla novità più importante che riguarda questo appuntamento per il 2015. Dal 15 aprile, quanti 15 stamattina? Dovrebbe infatti essere disponibile per molti contribuenti, quasi 20 milioni, quindi per tanti davvero, il cosiddetto modello 730 precompilato. Vedremo insieme come funzionerà. Cominciate a scaldare i motori per questa nuova stagione fiscale. 800 24 00 24. Scaldate i motori intanto anche per prenotare i vostri interventi in diretta. No, ma è dovuto alla birra, è pericolosissimo. Dai, cavolo, non si prendono le medicine così. Berni, ti prego, tienmi compagnia però, Sì, non mi va. Mi lasciare da sola. No, non prego, ne ho bisogno Berni. Adesso, posso... Prendi qualcosa, dai. Guarda, non ne ho bisogno. Per vecchi tempi. No. Berni, prendi qualcosa, per favore. Ok. Allora, andrò sul vecchio Serenil. Ma dai, è superatissimo. No, non è superato. Perché questo si chiama Seralin Retard, cioè cessione graduale di chetazola nell'arco di 24 ore. Quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. Ma che ti senti? Non lo so. Che hai? Berni, sono depressissima, non lo so. Questo faro, che come sempre questo rumore in continuazione. Non lo so, vedo tutto nero, ecco. Nel prossimo futuro, nel 2030 per l'esattezza, la depressione dopo le malattie cardiovascolari sarà la patologia responsabile della perdita del più elevato numero di anni di vita attiva e in buona salute. Una previsione che fa i conti con gli effetti della crisi economica, con l'ansia e la preoccupazione del futuro, con la fragilità e quel senso di inadeguatezza che stanno diventando sempre più diffusi tra i giovani e i meno giovani. Questo spiega, solo in parte, l'aumento del consumo di antidepressivi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Pierluigi Russo. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Coordinatore del centro studi OSMED dell'AIFA. Dottor Russo, i dati del rapporto AIFA 2014 confermano che nell'ultimo decennio il consumo di antidepressivi è cresciuto in maniera, direi, drammatica. Ci aiuta a leggere questi dati? Beh sì, è cresciuto in maniera rilevante, è praticamente quasi raddoppiato il consumo medio nazionale. Questo incremento ha diverse motivazioni, sì. Motivazioni di natura sociale che in qualche modo sono state anche ben rappresentate dai preliminari della trasmissione e in qualche modo determinati anche dall'evoluzione farmacologica. Indubbiamente i medicinali che abbiamo a disposizione oggi risultano più maneggevoli e più tollerabili rispetto a quelli che erano disponibili un po' di tempo fa, e questo certamente ha aumentato anche la platea di medici che in qualche modo prescrivono questi medicinali. Indubbiamente c'è anche in questa crescita, non è certamente da escludere, una tendenza all'autodiagnosi, sì. e quindi che in qualche modo configura degli ambiti di abuso. Certamente la tolleranza nei confronti del dolore, dello stress e di tutta del vivere in qualche modo si è aggravata negli ultimi 5-6 anni e questo porta indubbiamente poi dopo le persone a cercare delle soluzioni a volte non sempre del tutto utili per affrontare queste problematiche. Per questo oggi vogliamo proprio dedicare, dottor Russo, la nostra trasmissione a fare un po' di chiarezza, no? A distinguere, a dare un nome a quelle sensazioni di disagio che proviamo per evitare che la tristezza, ad esempio, diventi una diagnosi clinica o invece correre il rischio di trascurare invece una depressione. Tra l'altro, dottor Russo, la depressione colpisce in prevalenza le donne, ci sono delle fasce d'età più a rischio che voi avete evidenziato? Ma nel nostro rapporto viene in qualche modo descritta qual è la prevalenza di uso, quindi la frequenza di uso dei medicinali in particolar modo attivi sul sistema nervoso negli uomini e differenziando gli uomini rispetto alle donne. E indubbiamente a partire dalla fascia d'età di 45 anni si incomincia ad aprire la forbice con una maggiore frequenza di uso di questi medicinali nelle donne rispetto agli uomini. Questo è un dato sicuramente consolidato e che riflette almeno in parte proprio l'andamento della prevalenza delle malattie neuropsichiatriche nelle donne rispetto agli uomini. Ma dottor Russo, gli italiani si curano in modo adeguato? Si registrano abusi nell'uso di ansiolitici o di antidepressivi? Le terapie vengono seguite correttamente? Ecco, su questo bisogna fare una puntualizzazione, una precisazione direi necessaria. Chiaramente dei farmaci che sono stati anche rappresentati del film presentato prima all'inizio della trasmissione, vengono rappresentate delle categorie differenti dei medicinali rispetto al quale la potenzialità d'abuso e di maluso di questi medicinali è differente. Nel caso degli antidepressivi e quindi dei farmaci utilizzati in pazienti nei quali è effettuata una diagnosi di sindrome depressiva, quindi non parlerei della tristezza temporanea, noi stiamo registrando un aumento dell'appropriatezza d'uso nel senso della continuità al trattamento con questi medicinali. Questo che cosa significa? Che ovviamente se io vado a prescrivere un antidepressivo ad un paziente che non ha una sindrome depressiva, sperimenterà molto rapidamente degli effetti collaterali e tenderà a interrompere molto precocemente il trattamento. Quindi è chiaro che se io a livello nazionale rilevo che viceversa c'è un andamento opposto, vuol dire che probabilmente gli antidepressivi si utilizzano più adeguatamente nei pazienti che effettivamente hanno ricevuto una diagnosi. Lo stesso non si può dire per gli ansiolitici, quindi per le categorie cosiddette delle benzodiazepine. Questo sicuramente mi sentirei di sostenere che c'è una potenzialità di abuso e di maluso, quindi non ancora troppo alta. Ancora troppo alta, certamente. Dottor Russo, grazie per essere stato con noi. Grazie. Le auguriamo una buona giornata. Buon lavoro. Arrivederci. 800 24 00 24, allora chiamateci se il vostro umore è cambiato, se vi sentite stanchi, tristi, eccessivamente preoccupati, se vi sembra di vivere in una condizione di allarme, se invece vi sembra di avere perso il piacere di fare le cose, se notate che le giornate diventano sempre più grigie, faticose, chiamateci se il vostro medico vi ha prescritto una terapia, se assumete antidepressivi, se assumete ansiolitici, chiamateci anche per raccontarci che cosa vi ha aiutato a superare un momento di crisi, a chi vi siete rivolti, che cosa avete imparato. Oggi vogliamo raccogliere anche le vostre storie. Allora, che cosa vi ha aiutato a tornare a progettare il vostro futuro, ad avere fiducia nel domani, ad apprezzare la vita? Oggi in linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Laura Bellodi, direttore primario del Dipartimento Ansia, Disturbi Ossessivi e Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Anzi, buongiorno. Professoressa. Professoressa, vorrei anche da lei un commento. Sembra che la nostra salute mentale sia sempre più minacciata. Ma sicuramente questo è un punto di vista. Un altro punto di vista per leggere alcuni dei dati di cui avete parlato è il fatto che nella opinione pubblica e quindi in mezzo alle persone si sta rinforzando il concetto che anche la mente ha bisogno, quando si ammala, di essere curata e di essere curata in maniera appropriata. Quindi aumenta la sensibilità delle persone alla percezione del disagio quando questo diventa patologia che richiede una cura. Molto importante quello che avete fatto notare, cioè che anche la depressione, come altre malattie fisiche più riconosciute per il loro potenziale invalidante, anche la depressione quindi è qualcosa che può invalidare la qualità della vita, ridurre le capacità lavorative, quindi le capacità di indipendenza anche economica delle persone, se non viene trattata in maniera appropriata. Professoressa, anche ti ricordi, Deborah, l'avevamo citata, certo, quella, l'indagine Istat, che in qualche modo conferma il dato, il profilo dell'OSMED. La depressione è il problema mentale più diffuso, riguarda oltre 2,5 milioni di persone, con prevalenza doppia tra le donne in tutte le età. Tra le cause più frequenti c'è senza dubbio l'aver vissuto eventi dolorosi, la consapevolezza di avere una grave malattia, la difficoltà di gravi problemi economici, la perdita di lavoro. Professoressa, quindi ci sono eventi della vita che possono scatenare la depressione, corretto questo messaggio? Noi li chiamiamo eventi trigger, quindi ecco, sono dei fattori scatenanti che slatentizzano, quindi fanno emergere la predisposizione a questa problematica. Quindi c'è una predisposizione, noi riusciamo a capire, cioè, che viene slatentizzata solo da un evento particolare, o possiamo tratteggiare anche il profilo di una persona più sensibile, più vulnerabile, con una predisposizione a questo problema? Ma non tanto e non soltanto nei termini di personalità più predisposte, quanto prima accennavate alle fasi della vita, sì, e alla maggior prevalenza nel genere femminile. Allora, alcuni elementi che fanno riferimento ai bioritmi del genere femminile, quindi l'età fertile piuttosto che non l'entrare nell'età della menopausa, Quindi il cambiamento dei livelli ormonali di estrogeno e progesterone, ecco, questi sono sicuramente dei fattori che vanno a incidere sulla biologia della depressione, quindi non dobbiamo pensare soltanto a eventi esterni, eventi di vita negativi o eventi di perdita, ma anche proprio a eventi caratteristici della biologia femminile. Per esempio, piuttosto che non un altro riferimento, si parla spesso di depressione postpartum. Anche lì i cambiamenti dei livelli ormonali dopo la gravidanza possono slatentizzare, come dicevamo prima, la predisposizione di alcune persone alla depressione. Professoressa, la depressione non viene più considerata, per fortuna, solo come una malattia della mente, ma una malattia proprio del corpo. Ci sono infatti dei segnali che possono aiutare il medico ad arrivare alla diagnosi, disturbi che all'apparenza sono molto lontani dal problema, ma che invece possono aiutare ad individuarlo. Sono come delle spie che segnalano che qualcosa sta cambiando. Ci aiuta a individuarli? Certo, ma di fatto l'avere dei fastidi o dei sintomi a livello fisico è spesso quello che porta in prima battuta il paziente o la paziente ad una richiesta di aiuto al medico di medicina generale, al medico di famiglia. Gli elementi che fanno riferimento alla caduta delle energie, proprio il senso di affaticamento già di prima mattina, cioè quando uno si dovrebbe svegliare pronto, riposato per affrontare la nuova giornata, di fatto le persone dicono non uscirei dal letto perché il solo pensare a quello che devo fare mi fa mancare le forze, piuttosto che non l'alterazione degli altri elementi che caratterizzano i ritmi biologici, quindi l'alternanza sonno-veglia viene molto perturbata sia nella direzione dell'insonnia sia, fortunatamente in casi meno frequenti, un aumento esagerato del bisogno di dormire anche nelle ore della giornata. L'appetito che... Ecco, io volevo proprio arrivare all'appetito. Sì. La professoressa Bellodi si occupa anche di disturbi alimentari. Ci sì. sono persone che notano un cambiamento, si rivolgono magari al cibo con una voracità in modo differente. Questo potrebbe essere un segnale? Cercare fatto, nel cibo una sicurezza, sì, un appagamento, un conforto? Noi le chiamiamo depressioni atipiche, proprio perché diversamente dalla condizione più frequente, che è quella di caduta di appetito, perdita di gusto e piacere nel mangiare, alcune persone invece quando entrano in depressione più facilmente sono le depressioni stagionali, quelle che iniziano nei mesi autunnali, lamentano, oltre all'esagerato bisogno di dormire, la facile stancabilità, il fatto che nelle poche ore che stanno svegli continuano a mangiare, cioè un aumento, un incremento della fame. E sono poi le persone che spontaneamente alla remissione di questo episodio riferiscono che poi riprendono il loro peso normale, quindi dimagriscono nei mesi estivi. Allora, 800 24 00 24, dopo i mercati daremo naturalmente spazio alle vostre domande. Voglio leggere un messaggio, non è firmato, ma racconta una cosa, secondo me, no? Coglie nel segno. Depressione vuol dire vivere la vita con il freno a mano tirato. 800 24 00 24, raccontateci se vi siete riconosciuti nei sintomi, nei segnali descritti dalla professoressa Bellodi. Raccontateci anche le vostre storie. Siete usciti da un momento difficile, lo state facendo, chi vi ha aiutato, che cosa avete fatto e che cosa soprattutto avete imparato. Cuore e denari. Riuscire a inviare a tutti i dipendenti pubblici e ai pensionati direttamente a casa, magari attraverso uno strumento di tecnologia semplice, visto che il Papa ha detto che internet è un dono di Dio, ma ne possiamo smettere di considerare il nostro ostacolo o un problema, la dichiarazione dei redditi precompilata. Non si può dire che non ne parli proprio come se fosse il suo grande cavallo di battaglia, il nostro premier. Ora non ci resta che capire se sarà facile salire in sella questa dichiarazione dei redditi precompilato, oppure se qualche difficoltà in questa prima versione, messa in piedi per qualcuno forse un pochino frettolosamente, potremo incontrarla. Resta comunque una delle novità più importanti in campo fiscale di quest'anno. Sarà pronta per essere scaricata online da tutti i contribuenti a partire dal 15 aprile. Perché noi ne parliamo così presto? Perché questo tema sarà anche al centro della nuova edizione di Telefisco, che è in programma per domani qui al Sole 24 Ore. Noi ne parleremo nella nostra pagina di Denari tra pochissimo. Voi intanto chiamateci, noi proviamo a fare un sondaggio al numero verde. Come ve la immaginate questa dichiarazione dei redditi precompilata? Raccontatecelo se riuscite a fotografarla mentalmente all'800 24 00 24. In cosa ritenete che vi possa semplificare la vita? Vedremo tra poco quanta distanza c'è fra aspettative e realtà. Ma cos'ha la mia faccia che tutti mi chiedono perché sono triste? Me lo dicono in casa. Tristezza, malinconia, mancanza di entusiasmo, sconforto, sfiducia, insoddisfazione. A volte quando non riusciamo a trovare una causa o un motivo che ci sembri reali, tendiamo a etichettare questi stati d'animo con sono depresso, una frase che usiamo spesso a sproposito per comunicare più una fatica che un problema. Professoressa Bellodi è in linea ancora con noi, vero? Certo. Ecco, lei conferma? Come possiamo aiutarci? Come può aiutarci a non cadere in questa trappola? Quello che lei stava descrivendo attraverso una serie di asserzioni, di autodefinizioni, di fatto rappresenta la componente cognitiva della depressione. Prima parlavamo degli aspetti somatici, ma non dobbiamo dimenticare che visibile anche attraverso le espressioni mimico-gestuali, la depressione rimane un fatto mentale, cioè rappresenta l'orientamento verso il negativo che la persona in fase di depressione ha rispetto a se stesso, quindi la visione su di sé, sugli altri, sul mondo che lo circonda, e di conseguenza tutta la realtà, il modo di vedere e nel passato e nel presente e nel futuro viene letto attraverso questa sorta di velo di grigio nero. Certo. Quindi sicuramente quando ci sono evidenti questi indicatori di una cognitività orientata in senso pessimistico, di autosvalutazione, questo è un campanello d'allarme importante, in maniera tale che la persona che si vive in questo modo deve essere valutata sotto profilo diagnostico da persona competente. Rimane il fatto che nella condizione di tristezza emotiva, quindi sì, la tristezza è espressione di uno stato emotivo, noi dobbiamo e possiamo sempre ricercare il nesso con l'elemento che ha scatenato questa condizione, per cui un evento di perdita, un evento di lutto, un evento che pone in una condizione di precarietà, di incertezza la persona, è sicuramente un evento al quale fisiologicamente si deve rispondere con un atteggiamento di tristezza, che però non implica automaticamente la caduta delle prestazioni, delle capacità della persona, certo, di rispondere alle istanze familiari, lavorative, e tantomeno non gli toglie la capacità di provare piacere per le cose che usualmente gli danno piacere, anzi questo è un ledimento per quella reazione di tristezza. Sarebbe molto poco sano per una persona a cui sono capitate degli eventi negativi essere allegro e spensierato, essere triste ma per il tempo e con i modi che sono proporzionali all'evento è la reazione fisiologica di un individuo psicologicamente sano. Ecco, l'importante è che la tristezza deve esaurirsi in relazione alla qualità e alla gravità dell'evento che l'hanno generata. Andiamo a sentire le telefonate dei nostri ascoltatori. Sì. È ora di aprire la porta ai nostri ascoltatori, anzi di spalancarla, perché noi li vorremmo tutti qua. Io comincerei con Roberto da Modena. Buongiorno. Ci racconta quella che lui definisce un'esperienza positiva. Sì, buongiorno. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Buongiorno, senta, niente, io ho sentito questa vostra interessantissima discussione sul discorso della depressione in seguito anche ad eventi, e io ho avuto un evento in età ancora relativamente giovane, avevo 55 anni, e, con un grosso infarto. Per me è stato veramente un tracollo, cioè mi sentivo inutile, mi sentivo di non poter più affrontare le cose, la famiglia, i problemi dei figli, ed ero entrato in un circolo vizioso bruttissimo, tant'è che non riuscivo a dormire di notte, mi svegliavo con agitazione, mi svegliavo con tachicardie. Poi di seguito sono stato anche operato al cuore, e visto che c'è la dottoressa di San Raffaele, devo ringraziare il personale di San Raffaele, che è stato di una squisitezza e di una gentilezza, di una professionalità enorme. Ecco, tutti mi dicevano: ma i problemi del cuore possono dare questo senso di depressione, di tristezza, di non essere più partecipe alla vita quotidiana. Io dicevo: bah, vabbè, passerà. Poi le paure sono aumentate, non riuscivo più a uscire, avevo la mente sempre concentrata su questa cosa qua. E niente, e quindi mi sentivo di cadere proprio in questo circolo vizioso, di non riuscire a uscire da questa situazione. Dopodiché, sempre da alcuni medici di San Raffaele, ho seguito un loro consiglio, lo psicologo. Ed è stata una cosa meravigliosa, cioè sono riuscito a superare col tempo, attraverso anche l'uso di medicine, che di medicinali che mi hanno consigliato e che tuttora prendo, perché mi salvano soprattutto da questi problemi notturni che avevo di svegliarmi con paura, di non riuscire, insomma, certo, ad affrontare la giornata. E devo dire che volevo portare la mia esperienza positiva, perché proprio seguendo i consigli di medici e la loro spinta emotiva anche a voler superare e a vivere una vita normale, mi ha riaperto la vita. Io adesso... Roberto, questa esperienza positiva che lei racconta sono certa che aiuterà. Provate a scrivercelo se vi ha toccato l'esperienza, sì, di Roberto, aiuterà molti nostri ascoltatori, certo, perché spesso, e la professoressa Bellodi ce lo può confermare e dettagliare, si ha paura di prendere contatti, si ha paura di chiedere aiuto. Non dimentichiamo che il cuore è per eccellenza l'organo vitale, e quindi tutto quello che più o meno gravemente ha toccato la funzionalità cardiaca lascia un'impronta indelebile. L'importante è che questa traccia di memoria emotiva negativa non prenda piede e non impedisca invece di realizzare quel lavoro riabilitativo che comunque, anche con l'aiuto delle competenze psicologiche, può far ritornare ad una vita assolutamente normale persone anche che hanno subito interventi importanti. Andiamo a Raffaele, che ci chiama da Milano, ma prima vorrei leggere un messaggio al 349-238-6666. Professoressa Bellodi, un ascoltatore ci scrive: pensare sempre al passato e mai al futuro è sintomo di depressione, mi sembra di rifugiarmi nei ricordi e lì ci sto bene. Purtroppo il fatto che ci sia quello che noi chiamiamo questo bias cognitivo della memoria, per cui sono facilitati i ricordi negativi del passato, sì, a scapito invece del ricordo di eventi positivi, è un fenomeno assolutamente costante e regolare. Così come c'è una specie di cecità rispetto alle prospettive positive per il futuro, al contrario il passato con eventi negativi, magari sentimenti di colpa per qualcosa che si è fatto di negativo e a cui non ci si pensava più quando si sta bene, in depressione invece è come se tutta la negatività anche del passato saltasse addosso alla persona e gli togliesse energie per vivere il presente. Sì, la risposta è sì, il bias di memoria emotiva negativa è una costante della depressione, più o meno marcata, ma può arrivare fino al delirio, cioè al sentirsi colpevoli e punibili per cose capitate anche 30 anni prima, anche una modesta multa. Anche una modesta multa, di multe abbiamo parlato a Cuore Denari. Mamma, vedi che dobbiamo stare attenti allora come trattiamo l'argomento, evidentemente. Raffaele da Milano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io tra l'altro ho appena preso una multa, quindi spero di non cadere. No, noi invece la ringraziamo per questa risata che ci fa fare, Raffaele, altro che. No, ce la mandi che diamo un'occhiata, perché va magari bene, va bene, così magari riusciamo a risolvere un po'. No, guardi, molto semplicemente io sono rimasto colpito da un'affermazione della dottoressa che ho sentito 20 minuti fa. Io ho avuto due episodi di depressione, non sono un esperto ma lo sto diventando, nel senso che la prima è stata intorno ai 21 anni e la seconda è stata fino all'anno scorso, fino a pochi mesi fa, da cui ne sono uscito grazie anche a una bravissima dottoressa. Quello che mi ha colpito è stato il fatto che per la prima volta abbia sentito un'esperta parlare anche di un sintomo che a me risultava evidente ma che non trovava riscontro ogni volta che parlavo con un esperto. E qual era? Ossia la perdita di piacere anche nel cibo. È stato come essere raffreddati per un paio d'anni, nel senso che in questo orizzonte grigio, per cui qualsiasi attività piacevole non trovava una corrispondenza normale, cioè tutto mi passava davanti con un grigiore indescrivibile, una cosa particolare era proprio il cibo, cioè non tutto ciò che solitamente mi è tornato, grazie a Dio, a piacermi, era come se io non riuscissi a sentirlo, cioè lo mangiavo, lo sentivo tecnicamente, ma non però non provava più il gusto, il piacere, quella soddisfazione. Grazie Raffaele. Grazie per davvero. E soprattutto mi spiace per la multa, ma sono contenta che Raffaele ci racconti, come l'altro nostro ascoltatore, con un bel tono anche, sì, che dalla depressione si può uscire, dalla depressione si può guarire chiedendo aiuto, cercando aiuto, seguendo i consigli. Professoressa Bellodi, grazie per essere stata con noi. Bene, buona giornata anche a voi. Cuore e denari. È passato l'inverno lasciandomi addosso il ricordo di un saluto e il sapore incerto del. Allora sta finendo gennaio, le giornate, hai visto quanto si sono allungate? È pazzesco, certo. Guarda, incredibile. L'inverno ci fa godere, però, sì? Volevi aggiungere qualcosa? No, stavo pensando che si dice a Natale d'impasse d'ingal. Mi sembra in Piemonte o cose simili. Tradotto, ma in effetti a Natale il passo di un gallo, quindi da Natale si allungano un pochino. No, guarda, si esce poi, qua da, insomma, sai che per me poi quando c'è il Festival di Sanremo vuol dire che inizia quasi la primavera, quindi io sono già pronta. E d'altronde con tutti quei fiori che ci sono là. E allora domani sarà brutto, vedrai. Cosa può compromettere tutti questi bei pensieri, a parte questa tua previsione per domani? No, ecco, ve lo dico subito, cominciare a pensare alla dichiarazione dei redditi. Oh, per carità. Eccola là, infatti insieme a te molti altri saranno balzati sulla sedia pensando, ma insomma non è mica ancora l'ora di tuffarci nel mondo delle deduzioni e delle detrazioni. Però siccome quest'anno c'è una novità molto importante, abbiamo pensato di prendere le cose con sufficiente anticipo e così cominciate a scaldare i motori. Stamattina ho utilizzato un sacco di volte questa espressione, così non vi troverete impreparati. Segnatevi questa data, 15 aprile. A partire da quel giorno, per quasi 20 milioni di contribuenti sarà scaricabile online il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi. È un tema importante ed è tra i più importanti di cui domani si discuterà a Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto Risponde, il Sole 24 Ore, che quest'anno arriva alla 24esima edizione e mette sotto la lente, come sempre, il fisco che cambia. Anche quest'anno, nel corso della giornata, oltre alle relazioni degli esperti del Sole 24 Ore, ci saranno le risposte a tutti i quesiti che emergeranno da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia alle domande del pubblico che degli esperti. Ne abbiamo due anche noi di esperti, tra i nostri preferiti. Devo dire di sì. Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Ti vedo in difficoltà con la cuffia, adesso ti sistemo. Grazie. Tutto. Mirko Mion, il presidente di Agefis. Buongiorno Agefis, non mi ricordo mai l'accento dove va. Sarà perché con Mirko lo chiamo. Ciao Mirko, quindi come dire, la carica diventa a questo punto, dopo anni di collaborazione con noi, quasi superflua. Comunque buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano, Deborah, Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Ottimo, allora devo dire che già qualcuno sta scrivendo, perché c'è chi guarda un po' con sospetto a questa novità e già qualcuno comincia a dire sì vabbè è tutto bello, ma se io avrò bisogno di un CAF, di un commercialista, di non me ne frega niente, come dire, in soldoni di questa novità, di questa rivoluzione. Cercheremo adesso di capirlo insieme se è davvero così banale la novità che sta arrivando, se invece ha importanza e rilevanza. Prima però, Cristiano, il biglietto da visita di questa edizione di Telefisco 2015, soprattutto diamo le novità a chi vuole partecipare da lontano, da remoto a questo evento. Io e Nicoletta scendiamo in Sala Collina, tutti gli altri cosa possono fare? Tutti gli altri hanno due alternative: possono andare fisicamente in una delle sale congressi, delle sale convegni, sono 109 le sedi accreditate in tutta Italia, la lista si trova sia sul giornale di oggi, sul Sole 24 Ore, sia su internet, sul sito del Sole, quindi www.ilsole24ore.com/barra inclinata Telefisco. In alternativa si può anche vedere il convegno direttamente online, e in questo caso appunto l'indirizzo internet che vi ho appena dato è anche quello a cui collegarsi per vedere in diretta streaming, ma anche in differita, perché poi sarà possibile vederlo anche nei prossimi giorni, il convegno con gli interventi introduttivi. Avremo ospite anche il direttore delle entrate, Rossella Orlandi. Esatto, e poi le relazioni, che quest'anno sono 13, degli esperti principali del Sole 24 Ore. Parleremo ovviamente di dichiarazione precompilata, ma anche di tutte le altre novità di questo momento. Quindi, il voluntary disclosure, per esempio. Esattamente, dell'abuso del diritto, che è ancora in attesa di trovare il suo decreto legge, ma anche della nuova norma sul ravvedimento operoso, del regime per le partite IVA e i contribuenti minimi, il cosiddetto forfettizzato. Poi c'è l'IVA, che comunque per i commercialisti è sempre un argomento strategico alla quale dedicheremo due relazioni, e insomma mettiamo un po' meno ovviamente ricco, anche l'accertamento, insomma, i reati tributari, insomma, certo, tutto quello che c'è da sapere per l'attività professionale. Tema dell'abuso del diritto ci piace, dobbiamo organizzarci una puntata, Nicoletta, sì. Adesso domani cercheremo di capirne qualcosa di più per poi trasferirla anche nel nostro contenitore. Allora, tutte le domande che vorrete fare avranno risposta domani con tutta la nutrita rosa di esperti che il Sole 24 Ore propone a Telefisco, ma anche noi rispondiamo, come facciamo ogni giorno, ai vostri quesiti all'800 24 00 24. Cosa trovate difficile nella dichiarazione dei redditi, come la vorreste, come si potrebbe semplificare, come vi immaginate questo 730 precompilato? C'è un ascoltatore che diceva rosa per le femmine, per i maschi. Cristiano, andiamo appunto a questa novità molto importante, se non altro dal punto di vista delle dimensioni, perché appunto dicevamo la precompilata, in teoria per chi vorrà utilizzarla, certo, interessa almeno 20 milioni di contribuenti. La macchina del fisco è già partita per mettere a disposizione da metà aprile questo documento per noi tutti? Sì, assolutamente, la macchina del fisco si è messa in moto. Questo è un grosso sforzo organizzativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo, per arrivare al 15 aprile, delle scadenze intermedie, nel senso che entro il 28 di febbraio, che poi è una scadenza che slitta al 2 marzo successivo, i sostituti d'imposta, quindi i datori di lavoro, devono consegnare ai dipendenti, ma anche agli autonomi, questa è una novità di quest'anno, la certificazione unica dei compensi e delle ritenute, e poi abbiamo entro il vecchio CUD, esatto, ecco, e devono poi inviarla alle entrate entro il 9 di marzo, mentre sempre entro il 2 di marzo ci sono le banche, le assicurazioni e gli enti pensionistici che devono trasmettere alle entrate una serie di dati che riguardano ad esempio interessi passivi sui mutui, bravissima, esatto, gli interessi sui mutui, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, le polizze vita e invalidità permanente. Allora, questi dati verranno trasmessi alle entrate, che poi li faranno confluire insieme ad altri che recupereranno dalle proprie banche dati, quindi dall'anagrafe tributaria, all'interno del modello precompilato. Quindi, se facciamo riferimento, insomma, che intorno al 9 di marzo le entrate dovrebbero avere tutti i dati a disposizione, capiamo che avranno poi un mesetto per assemblare tutti i modelli, i dati, e quindi farci una prima fotografia di quello che abbiamo speso lo scorso anno, di quello che abbiamo versato e quello che abbiamo guadagnato, e poi dovremo capire invece i dati che mancano, che se non siamo soddisfatti di questo documento dovremo aggiungerlo o da soli o appunto con l'aiuto di un professionista. Mion, non appena... Eccola lì. Mirko Mion. E poi dove andiamo a prenderla appunto il 730 precompilato? E poi le chiedo anche se vuole farci un po' un commento su tutta questa rivoluzione, cosa ne pensa voi come professionisti? Lei è il nostro grande esperto della casa, perché ormai lo consideriamo così. In realtà questa organizzazione che Mirko Mion rappresenta assiste i contribuenti per come dire, risolvere le questioni di carattere fiscale a 360 gradi. Vi sarà utile il 730 precompilato? Beh, innanzitutto diciamo che effettivamente si tratta di una rivoluzione copernicana che noi vediamo anche in qualità di cittadini, di contribuenti, come un'opportunità per cambiare veramente il rapporto con il fisco. Si tratterà quindi sicuramente poi di lavorare in una logica di work in progress per farla diventare effettivamente un rapporto che sia in qualche modo effettivamente congruo e concreto con quella che è la nostra posizione fiscale. Quello che rispetto alla sua domanda mi sento di dire, e la ringrazio perché facciamo anche un po' di ordine, è che si sta creando un po' nell'immaginario collettivo l'aspettativa che il fisco ci mandi questa dichiarazione a casa. Nella realtà non è proprio così, perché la non è affatto così, direi, ecco. Non è affatto così, infatti la dichiarazione verrà messa a disposizione su una particolare area del sito dell'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area di fisco online, dove attraverso l'accesso ad un'area riservata, attraverso una password e un codice PIN, il contribuente potrà vedere la propria dichiarazione. Funzionerà un po' come con il rapporto con l'INPS quando prepariamo ed elaboriamo il cosiddetto PIN dispositivo, Mion? Esattamente. Infatti pare che ci sia allo studio la possibilità anche di dare al contribuente non soltanto l'accesso con il PIN dato dall'Agenzia delle Entrate attraverso una procedura online o attraverso la richiesta di un numero telefonico, un numero verde che è stato già messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ma utilizzando anche il PIN. Certo, il PIN, fare un codice unico naturalmente per tutte le procedure per dialogare con l'IPS. Attenzione, sì, non sarà proprio un codice unico, perché quello ci arriveremo più avanti. Quello che stanno studiando è che in questa prima fase chi ha già un codice INPS operativo potrà con il codice INPS accedere alla precompilata, non viceversa, cioè non potrà usare il codice entrate per l'INPS o per altre amministrazioni. No, questa prima fase, il codice INPS mi permette di andare anche sul sito del fisco, almeno questa è l'ipotesi a cui si sta lavorando e che ragionevolmente verrà pronta. Sarà per aprile. Una delle domande che domani dovrete fare a Rossella Orlandi o non so a chi. Bene. Per lei naturalmente da risolvere. Certo. Al più presto. Cuore e denari. Senti Peter, voglio farti una domanda. Una tua ex ragazza ti telefona all'improvviso la vigilia di Natale. Tu che faresti? Ad un tratto hai problemi a trovare una donna? Certo. Lasciala nel passato. Le vecchie fiamme sono come le vecchie dichiarazioni dei redditi. Le metti in fila nell'armadio per 3 anni e poi te ne liberi. Non ci telefonerà come una vecchia fiamma, neanche viene a suonarci sotto casa. Mi pare che questo messaggio sia stato molto chiaro nella prima parte di Cuore e Denari. Non possiamo neanche definirla una vecchia fiamma, perché è tutta nuova e quest'anno sarà ancora più nuova. Vedremo però che feeling potrà crearsi con la nuova dichiarazione dei redditi, la cosiddetta precompilata di cui stiamo parlando oggi a Cuore Denari, ma soprattutto di cui si parla domani a Telefisco, qui al Sole 24 Ore, del grande evento dell'Esperto Risponde, il Sole 24 Ore, che ogni anno racconta tutto il fisco che cambia. Le novità di quest'anno sono molte e come ogni anno i professionisti naturalmente hanno bisogno di capire anche come interpretare le novità fiscali che arrivano. E allora abbiamo scelto un tema di largo interesse che sarà anche largamente esplorato da tutti i professionisti che interverranno domani: la rivoluzione fiscale di quest'anno che interessa 19 milioni di contribuenti, l'arrivo del 730 in gran parte compilato. Non ci arriva a casa, abbiamo detto prima con Mirko Mion e Cristiano Dell'Oste, dal 15 aprile sul sito di Fisco Online, naturalmente con tutte le credenziali che nel frattempo avremo scaricato e che ci saremo costruiti, potremo di conseguenza appunto scaricarla da internet. questo, banalizzato molto, ma alla fine il procedimento sarà questo. Voi intanto continuate a numero verde a chiamarci all'800 24 00 24, come vi immaginate questo 7:30 precompilato, ma soprattutto siete tra coloro particolarmente anche dinamici nella gestione delle vostre questioni fiscali e quindi farete da soli oppure comunque, come dire, anche se questo documento sarà disponibile, vi avverrete di un consulente, di un professionista, di un centro di assistenza fiscale. Mion, ritorno con lei. Agefis, l'hanno chiamato il 7:30. Agefis, adesso bisogna... No, Agefis. Guarda che mi prende anche come l'accento indietro. Di Padoan o Padoan. Certo, perché anche quello è un grosso problema che tutti i giorni ci assilla, sapere come chiamare il nostro ministro. Comunque, 7:30 intelligente, 7:30 a domicilio. Il vantaggio di questo 7:30 nuovo è quello di raccogliere anche gli altri redditi soggetti a ritenuta, no? Percepiti da un dipendente o da un pensionato, comprese per esempio le collaborazioni occasionali, le provvigioni ad agenti, i diritti d'autore, i compensi per attività sportive dilettantistiche. Ma l'Agenzia delle Entrate, secondo lei, anche nelle modalità che ci ha spiegato prima Cristiano, riuscirà ad essere precisa nella raccolta di tutti questi dati, a patto che naturalmente gli interessati si attivino per fornirglieli? Teoricamente sì, ma nella pratica, secondo lei? Ma allora, nella pratica l'infrastruttura informatica è predisposta per far funzionare tutta la macchina perfettamente. Diciamo che sarà tremendamente importante che tutti gli attori di questa precompilata siano sintonizzati, sincronizzati e siano, come dire, dei fornitori corretti della documentazione che serve per alimentare poi la dichiarazione. Quindi sì, tutto ciò che sarà contenuto all'interno di questa comunicazione unica del 2015, quindi oltre alle tradizionali dati che c'erano nel CUD, anche come ha detto lei, le prestazioni del lavoratore autonomo, le provvigioni, gli utili di associazione in partecipazione, i diritti d'autore, dovranno essere inviati per tempo, perché altrimenti il 15 aprile al momento della start line mancherà qualche dato, e dovranno essere conferiti con correttezza e coerenza, certo, con i dati che sono stati, con gli importi che sono stati effettivamente assegnati al contribuente. Quindi se il dato parte per tempo e parte corretto e parte preciso, la dichiarazione secondo me sarà altrettanto precisa. Ma sono certa, insomma, che poi qualche problematica salterà fuori, ma in ogni caso è la prima grande operazione di questo tipo che il nostro sistema, certo, fiscale si lancia, si avventura nel fare, per cui poi arriveranno gli aggiustamenti. Allora io comincerei anche a sentire le domande degli ascoltatori. Ma ben volentieri. E andrei in Veneto, se non ti dispiace, Nicoletta. Sì, allora andiamo subito da Fabio. Vedi, meno male che so un po' di geografia, se no sbagliavo. Perché... Allora, Fabio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, Fabio. Allora, io mi sono già iscritto a Fisco Online, ho già ricevuto il PIN per me e per mia moglie, perché noi facciamo di solito la dichiarazione congiunta, ottimo. Sì, allora io volevo intanto sapere... E sull'autostrada, Fabio, dove si trova? Sentiamo queste macchine che vanno... No, sono per strada, sì, mi sono fermato. Sì, fermi con l'auricolare, fermo. No, sono fermo. Okay. Ottimo. Volevo sapere se potrò continuare a fare quella congiunta o mi toccherà fare due dichiarazioni distinte. Fabio, grazie. Allora, è una risposta che possiamo dare o la dobbiamo fare domani agli esperti di Telefisco? Cristiano Dell'Oste. Possiamo ipotizzare una soluzione. Questo è uno dei casi particolari. Diciamo che salvo sorprese, almeno per quest'anno, il nostro ascoltatore Claudio dovrà fare due dichiarazioni, perché comunque sia l'Agenzia delle Entrate, è vero che ha i dati della dichiarazione dell'anno scorso che lui e sua moglie hanno presentato congiunta, ma non può sapere se loro la vogliono presentare congiunta anche quest'anno, perché potrebbero avere mille motivi per cui magari quest'anno uno fa di nuovo il 7:30 e l'altro fa unico. Quindi ragionevolmente le entrate faranno così: entro il 15 aprile metteranno a disposizione due precompilate distinte, una per Claudio e una per sua moglie. Dopodiché, se loro vogliono accettarle o modificarle o integrarle separatamente, anche per proprio conto, anche senza andare da un intermediario, certo, da un CAFA o da un commercialista, lo fanno. Se invece vogliono farla congiunta, a quel punto dovranno rivolgersi a un CAFA, a un commercialista, a un intermediario e ripresentarla congiunta. Quindi questo almeno al momento, scanso di superiore, mi sembra una strada abbastanza tracciata, ecco, per quest'anno è così, perché il fisco non può sapere se il contribuente la vuole rifare congiunta anche quest'anno. Quindi ne riceveranno, se vorranno utilizzare il canale di fisco online, due distinte. Per farla congiunta devono andare ad aggregarla, se vogliono rifarla congiunta, sì, da un professionista o un centro assistenza fiscale. Allora Mirko Mion, appunto, arriva la dichiarazione online, la scandagliamo tutta, la guarderemo bene naturalmente dal 15 aprile, ammettendo che c'è una voce che non torna, che qualcosa non ci quadra. Quali sono gli step eventualmente da fare per apportare i correttivi che vorremmo apportare, magari anche segnalati da un professionista come uno dei vostri? Certo, beh, allora innanzitutto ribadiamo la possibilità da parte del contribuente di accettarla senza alcun tipo di modifica, e qui il contribuente... Quando se ne deve accorgere, tra l'altro... In che senso, quando se ne deve accorgere? Che è magari sbagliata in qualche parte. Vabbè, diciamo, e quindi che deve c'è fare lì una verifica. Allora, se il contribuente, come il signor Claudio, che è abituato a presentare la cosiddetta precompilata anche attraverso un CAF, come era nelle opportunità degli anni precedenti, cioè portando la dichiarazione già predisposta al proprio CAF, se la va a vedere all'interno del proprio cassetto fiscale, verificherà se i dati inseriti nella precompilata sono coerenti con i documenti di cui lui è in possesso, ad esempio il CUD, quindi i redditi, piuttosto che gli immobili caricati sulla dichiarazione con la relativa rendita, e laddove li ritenga corretti e precisi, senza dover aggiungere o modificare nulla, potrà semplicemente accettarla. In questo caso non avrà chiuso già da quel momento la partita con il fisco, cioè la dichiarazione è definitiva e non subirà nessun tipo di... No, ma è quello che io volevo sapere proprio adesso, in poi ci faremo altre 50 puntate, per cui magari questi aspetti certamente avremo modo di richiarirli, ma il 18 aprile io mi metto sul sito di Fisco Online, scarico la precompilata, la vedo, non riesco probabilmente in un colpo d'occhio a vedere se ci sono degli errori, a verificarlo immediatamente, no? Quindi il fatto di scaricarla, quella procedura che faccio in quel momento mi farà arrivare ad un punto in cui il sistema mi chiede: accetti la dichiarazione precompilata secondo questa formula o la rifiuti? Cioè io devo farlo in quel momento o mi potrò prendere due giorni dopo aver scaricato il documento? Allora, o non lo sappiamo siamo ancora. Nell'ambito delle ipotesi, perché intanto che non verrà messa a disposizione, cioè la data del 15 aprile, probabilmente è una domanda che potranno porre gli esperti del Sole 24 Ore all'interno del telefisco. Certo. Ma sarò intelligente anche questa. Cioè, ma oggi il cervello, diciamo, proprio ragionevolmente, utilizzando il metodo di Cristiano per la risposta precedente, ragionevolmente avrò tutto il tempo di fare tutte le verifiche, certo, di accettarla fin tanto che non la rendo definitiva. Nel caso in cui invece dovessi andare a modificare la dichiarazione, quindi modificare i dati inseriti o integrarla quindi con ulteriori dati, lo posso fare anche in autonomia. Chiaramente sono soggetto a possibili e potenziali verifiche. Cosa aggiungiamo, Cristiano? No, noi abbiamo due date. Abbiamo il 7 luglio, che è la data per l'invio della dichiarazione per tutti, sia per chi, diciamo, si fa bastare la precompilata, sia per chi la integra. È chiaro che se un contribuente prima del 7 luglio la accetta, a quel punto lui la dichiarazione l'ha inviata, quindi per correggerla dovrà fare un'integrativa, e l'integrativa la norma ci dice che si può fare entro il 10 di novembre. Queste sono le due indicazioni che abbiamo poi se la procedura ricalcherà quello che fanno per esempio i software di compilazione, è possibile che magari io possa fare una prima integrazione e salvare senza inviare definitivamente. Forse questo che intendeva dire Mion, e questo mi sembra anche in questo caso ragionevole. Lo vedremo. Ovviamente chi prende la precompilata in mano, il consiglio è: non abbiate fretta di accettarla subito. Eccolo là, infatti. Ci sarà sicuramente grande curiosità, infatti le entrate, lo sappiamo, l'hanno già detto informalmente anche gli operatori, stanno mettendo a punto anche un sito che sia abbastanza potente da reggere la curiosità dei primi giorni, e speriamo che sia anche comprensibile nel percorso da seguire per scaricare il documento. Questo sì. Tra l'altro c'è una cosa importante da dire, una novità grossa della precompilata, che con una buona dose di buon senso, diciamo, l'agenzia ha previsto di introdurre all'inizio, adesso poi vedremo dove sarà, ma dovrebbe essere all'inizio della precompilata, un prospetto in cui viene riportata la fonte da cui sono stati presi tutti i dati. Ah, quindi avremo qualcuno con cui andarcela a prendere se, esatto, se i dati sono, beh, sbagliati. Banalmente potremo subito vedere se noi abbiamo lavorato per due datori di lavoro, se ne manca uno, per, ottimo, esempio, e già lì questo ci suona come campanello d'allarme. Ma poi l'Agenzia delle Entrate farà un altro lavoro, metterà all'interno della precompilata solo i dati che sono, diciamo, sicuri. Quindi se c'è qualche dato trasmesso da qualcuno, adesso poi ti faccio un esempio per chiarire l'idea, sì, non verificato, ce lo riporterà nel prospetto e a quel punto potremo valutare se e fare un riscontro, noi di controllare. Controlla se è giusto lo metti, certo, se non è giusto lo metti corretto. Faccio un esempio, gli interessi sul mutuo. Uno dei controlli automatizzati che faranno le entrate, l'abbiamo scritto sul giornale di ieri, è vedere se l'importo degli interessi è superiore a quello indicato l'anno prima. Perché? Perché tendenzialmente il mutuo si rimborsa e, salvo casi particolari di rinegoziazione eccetera, io pago ogni anno un po' meno interessi. Poi con questi tassi che stanno continuamente, esatto, scendendo, allora, proprio non possiamo riportare in questa fase storica interessi crescenti, esatto, non credo. Quindi se le entrate vedono che quest'anno la banca mi ha indicato più interessi dell'anno precedente, me lo mettono nel prospetto, yeah, non nella precompilata. Un alert, insomma, esatto, rampeggiante. Poi questa voce starà a me vedere se davvero io ho pagato quell'importo lì, magari perché sono passato dal variabile al fisso per qualche mio motivo, ho cambiato, certo, istituto, certo, eccetera. Questa è una situazione possibile. Oppure se il dato è sbagliato o se era sbagliato quello dell'anno scorso, perché non si può sapere, però diciamo c'è qualcosa da andare a vedere. E quindi dice, contribuente, stacci attento, controlla, se del caso mettilo tu. Allora, un altro suggerimento che possiamo dare, non cominciate tutti subito il 15 aprile alle 8 del prendetevi mattina. Prendetevi un po' di tempo. Esatto, esatto. Andate a farmi una passeggiata, poi tornate. Però già vedo che sarà come una sorta di click day, se non altro i curiosi vorranno andare a vedere. Insomma, qualche milione di contribuenti lo farà. Esatto, su 20 milioni un paio, vale, si metteranno lì davanti. Eccomi, Ion, che scalpita. Deborah, sì, no, volevo fare un'ulteriore precisazione, perché anche qui per non ingenerare un eccesso di accessi anche da parte di chi poi un eccesso di accessi, un accesso sembra uno scioglilingua, esatto, e faremo, sì, ce ne torneremo su questo binomio con i denti, Nicoletta, faremo. Perché anche qui magari si sta creando un'aspettativa da qualcuno che ritiene di poter vedere la propria precompilata, cioè coloro i quali che hanno avuto dei redditi che sono nati nel 2014 e quindi che rientrano concettualmente nel perimetro dei contribuenti interessati dal modello, non troveranno la precompilata, perché sono interessati esclusivamente, per quanto riguarda la precompilata, i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il 7/30/2014 per i redditi 2013. Quindi no, ci ribadisce, chi non la troverà, quindi chi è inutile, esatto, che faccia il procedimento di ricerca? Un rapporto di lavoro di dipendente, piuttosto che un pensionato che ha acceso il proprio rapporto nel 2014 non troverà la precompilata, certo. Questo è molto chiaro, già anche scritto sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'interno, benissimo, della sezione a chi interessa. Allora, ci mancano 4 minuti di tempo, vogliamo, e dobbiamo aprire, sì, il grande capitolo delle spese sanitarie. Grazie alla domanda. Allora, meno male, perché è arrivato il momento di Rinaldo, che io volevo... No. No, è caduto, perché non aspettare? Rinaldo. Allora, lui voleva dire, lo anticipo io, era un signore. No, forse lo abbiamo ripescato? Non si sa. Non, vabbè, l'anticipo la domanda. Non lo so. Allora sentiamo Gian Domenico dalla provincia di Varese, poi il capitolo. Fatto rimanere male questo Rinaldo. Ti ha spezzato il, sì, cuore? Sì. Gian Domenico, benvenuto. Ce lo risollevi lei. Grazie, buongiorno e grazie per il vostro aiuto, sempre così puntuale e preciso. Grazie. Grazie. Allora, io ho già chiedevo... dimenticato Rinaldo, guarda. Che farfallona che sei, però, sì, eh. Lo ammetto. Chiedevo qualcosa relativamente a quelli come me che hanno chiesto un rimborso superiore ai 4.000 euro con la dichiarazione dell'anno precedente. Cioè, perché aveva fatto una ristrutturazione di casa massiccia, Gian Domenico, derivava da esattamente, questo. Esattamente. Mm-hmm. Io ho fatto la richiesta per il rimborso online, e quindi mi sono registrato, ancora non ho avuto nessuna comunicazione, si parlava di ottobre, poi sono andato anche all'Agenzia delle Entrate, mi hanno risposto verbalmente che potevo fare una richiesta ripresentando tutta la documentazione. Certo. Allora ho chiesto, insomma, se devo ripetere una nuova documentazione che ho già presentato tramite il CAF. Vorrei allora solo... Sì, Gian Domenico, aspetti lì. Solo una precisazione, l'anno scorso ho fatto il 730 o ho fatto il modello unico? Sempre 7.30. Perfetto. Allora, ricordiamo un po' le regole di questo rimborso fiscale per importi superiori ai 4.000 euro quando sono legati appunto a ristrutturazione edilizia, Cristiano. Sì, non solo ristrutturazione edilizia, che sì, quello è il caso più comune, diciamo, però potrebbero essere anche delle grosse spese mediche, per esempio. L'ha detto la legge di stabilità relativa al 2014. In pratica cosa succede? Che se c'è un contribuente che ha diritto a un rimborso fiscale superiore a 4.000 euro e in abbinata ha o delle eccedenze d'imposta o delle detrazioni da familiari a carico, perché il 4.000 euro da solo non basta, devi avere una di queste due cose, o eccedenze d'imposta o detrazioni da familiari a carico, il rimborso non viene più liquidato dal datore di lavoro in busta paga o dall'ente pensionistico, ma direttamente dalle entrate dopo un controllo che viene fatto entro 6 mesi. Allora, la norma prima non diceva entro quando poi però va effettivamente pagato, ti diceva entro quando va fatto il controllo. Adesso l'ultima legge di stabilità ha stabilito che all'inizio di febbraio, scusate non ricordo la data esatta, credo intorno al 6-7, questi rimborsi vanno versati. Com'è la situazione? Qualche settimana fa hanno dato i dati, erano circa un po' meno di 70.000 i contribuenti che avevano questi rimborsi, quindi una piccolissima parte in tutta Italia, ne hanno pagati più di metà, le ultime migliaia sono soggette ancora al controllo in corso. Gian Domenico, prendiamo qualche altra settimana di tempo, poi ci scriva, magari faremo noi una verifica. Rinaldo da Varese, l'abbiamo aspettata tanto, velocissimo, no, grazie. No, io sono qua da mezz'ora però. Allora io volevo dire una cosa, io che sono un anziano signore, il quale non ha né l'internet né niente, ritiene che questa nuova età è una complicazione e basta. Ma non è un obbligo, Rinaldo, lei può fare esattamente come ha fatto l'anno scorso, Esatto. Capito, Rinaldo? Cioè io posso andare al CAF normale? Ma deve, certamente, per chi vuole farlo lo fa anche su internet. È un'opportunità lei in più. Si deve rasserenare. Quindi io posso andare al CAF normale? Ma certo, certamente, Rinaldo, non cambia nulla per lei. Però voleva introdurre il tema delle spese mediche, che non abbiamo minimamente toccato. Qua urge un'altra trasmissione. Tutti convocati? Tutti convocati. Poi invitiamo anche noi. Carlo Genta, Pardo e quant'altro. Cristiano, dopo Telefisco ci ritorneremo al più presto. Sicuramente. Presidente. Grazie. Mirko Mion. Sarà riconvocato. Buongiorno. Anche lei, naturalmente. Si tenga pronto. Sempre disponibile. Dorma preoccupato. Guardi, deve rispondere a tutte le mail che ci sono arrivate, che qua piovono, che è una bellezza. Grazie a tutti. A domani. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata.